mattino e notte scura, guarda il mio destino e dimmi se vedi una donna con il suo bambino che mi aspetta sotto la pioggia. Guarda le pensieri e nelle mie mani, dimmi se oggi ieri o è già domani. E dimmi, per me c'è una speranza. E dimmi, per me c'è una coscienza. Guarda le mie vetri e dietro i muri, tu vedi giorni allegri o giorni scuri. E oddio, se c'è, serve a qualcosa. Oddio, se c'è, serve a una causa. Guarda ora i miei sogni e dimmi se vedi una guerra. Guarda nei confini e dimmi se c'è più una terra. Guarda i miei silenzi e i miei Balcani, i giorni più felici sono lontani. Guarda nei miei sogni e dimmi se c'è una terra.